Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Ecco che cos'era successo nella casa del procuratore del re durante la conversazione che abbiamo riferito tra Maximilien e Valentin. Il signor di Villefort era entrato nella camera di suo padre, seguito dalla signora di Villefort. Il signor Noirtier, seduto in una gran poltrona a rotelle dove veniva posto la mattina e levato la sera, stava davanti ad uno specchio che, riflettendo tutto l'appartamento, gli permetteva di vedere, malgrado la sua infelice immobilità, chi entrava nella sua camera, chi ne usciva e tutto ciò che si faceva intorno a lui. Il signor Noirtier, immobile come un cadavere, guardava con occhi intelligenti e vivi i suoi figli, il cui fare cerimonioso gli annunciava qualcosa di importante e inatteso. La vista e l'udito erano i due soli sensi che come scintille animavano quel corpo umano inerte, già in gran parte pronto per la tomba. E di questi due sensi, solo la vista rivelava all'esterno la vita interiore che animava quella statua. Lo sguardo era paragonabile a una di quelle luci lontane che durante la notte avvertono il viaggiatore smarrito in un deserto, che un essere umano veglia ancora in quel silenzio e in quella oscurità. In quegli occhi neri, incorniciati da sopracciglia nere, si erano concentrate tutta l'attività, la destrezza, la forza e l'intelligenza, molto vivaci un tempo in quel corpo e in quello spirito. Comandava con gli occhi, ringraziava con gli occhi. Era un cadavere con gli occhi vivi, e niente poteva essere a volte più minaccioso o dolce di quel viso di marmo quando si accendeva di collera o risplendeva di gioia. Soltanto tre persone sapevano comprendere il linguaggio del povero paralitico: Villefort, Valentin e il vecchio domestico Barrois. Villefort, quindi, non aveva bisogno di soccorsi per intavolare con suo padre la strana conversazione che stava per incominciare. «Signore», disse, «la signora di Villefort e io abbiamo una comunicazione da farvi che vi farà piacere». L'occhio del vecchio restò immobile. Egli ascoltava e niente più. «Signore», riprese Villefort, «noi vogliamo maritare Valentin». Una statua di cera non sarebbe rimasta più fredda del vecchio a questa notizia. La signora di Villefort prese a sua volta la parola e si affrettò ad aggiungere: «Abbiamo pensato che questa notizia vi avrebbe fatto piacere, signore, tanto più che Valentin sembra aver conquistato tutto il vostro affetto. Non ci rimane altro da dirvi che il nome del giovane che le viene destinato. È uno dei più onorevoli partiti ai quali possa aspirare Valentin. È ricco, ha un bel nome che non deve esservi sconosciuto, il signor Franz Quesnel, barone d'Épinay». Allorché la signora di Villefort pronunciò il nome di Franz, l'occhio di Noirtier, che suo figlio conosceva tanto bene, fremette, e le pupille, dilatandosi come fossero state due labbra al momento di dire una parola, lasciarono sfuggire un lampo. Il procuratore del re, a conoscenza degli antichi rapporti di inimicizia politica tra suo padre e il padre di Franz, comprese il significato di quell'agitazione, ma ciò nonostante finse di non accorgersene. «Questo matrimonio», soggiunse la signora di Villefort, «è gradito al signore d'Épinay e alla sua famiglia, la quale d'altra parte non si compone che di uno zio e di una zia. Sua madre morì nel darlo alla luce. Suo padre morì assassinato nel 1815, cioè quando il bambino aveva appena 2 anni. Egli è dunque padrone di se stesso». «Assassinio misterioso», disse Villefort, «di cui gli autori sono rimasti sconosciuti, quantunque il sospetto fosse caduto sulla testa di molte persone». Noirtier fece un tale sforzo che le labbra si contrassero come per sorridere. «Ora», continuò Villefort, «i veri colpevoli, coloro che sanno di aver commesso il delitto, coloro sui quali può discendere la giustizia degli uomini durante la loro vita e la giustizia di Dio dopo la loro morte, sarebbero ben felici di essere al nostro posto e di avere una figlia da offrire al signor Franz d'Épinay per fugare ogni ombra di sospetto». Noirtier si era placato con uno di quegli sforzi che non ci si sarebbe aspettati da un uomo in quelle condizioni. Noirtier annuì con uno sguardo a Villefort, sguardo che esprimeva anche uno sdegno profondo e una collera consapevole. Dal canto suo, Villefort rispose a quello sguardo nel quale aveva letto ogni cosa con una leggera stretta di spalle. Quindi fece segno a sua moglie di alzarsi. «Ora, signore», disse la signora di Villefort, «gradite i nostri rispettosi saluti». I signori di Villefort salutarono il vecchio Noirtier e mentre uscivano, Valentine, ancora tutta rossa per l'emozione provata, entrò nella stanza. Le bastò uno sguardo per capire come soffrisse il nonno e quante cose avesse da dirle. Tre quarti d'ora dopo, il signor di Villefort rientrò con il notaio. «Signore», disse Villefort, «vi ha mandato a chiamare il signor Noirtier di Villefort che qui vedete». Una paralisi generale gli ha tolto l'uso degli arti e della voce, e soltanto noi, e a grande stento, riusciamo a comprendere qualche frammento dei suoi pensieri. Con gli occhi Noirtier indirizzò a Valentine un richiamo così serio e imperativo che lei intervenne prontamente. «Io, signore, Io capisco tutto ciò che vuol dire mio nonno. Il signor Noirtier, privato della voce, privato dei movimenti, chiude gli occhi quando vuol dire di sì e sbatte le palpebre a più riprese quando vuol dire di no. Ora ne sapete abbastanza per parlare con il signor Noirtier. Provate. Lo sguardo che il vecchio lanciò a Valentin era così colmo di tenerezza e di riconoscenza che fu compreso dallo stesso notaio. «Voi avete sentito e capito ciò che ha detto vostra nipote, signore?» domandò il notaio. Noirtier chiuse dolcemente gli occhi e li riaprì dopo un istante. «E approvate ciò che ha detto? Cioè che i segni da lei indicati sono proprio quelli per mezzo dei quali fate comprendere i vostri pensieri?» «Sì», fece ancora il vecchio con lo sguardo. «Siete voi che mi avete fatto chiamare?» «Sì». «Per fare il vostro testamento?» «Sì». «E non volete che me ne vada senza averlo fatto?» Il paralitico batté ripetutamente le palpebre. «Ebbene, signore, lo capite ora?» domandò la ragazza. Il notaio, affascinato da questa prova, disse: «Nulla mi sembra più facile di quello che poco fa mi sembrava impossibile. D'altra parte, perché quest'atto non sia impugnabile, gli daremo l'autenticità più completa. Uno dei miei colleghi mi farà da assistente e, contrariamente all'uso, presenzierà alla dettatura. Siete soddisfatto, signore?» terminò il notaio, rivolgendosi al vecchio. «Sì», rispose Noirtier, contento di essere capito. In capo ad un quarto d'ora, tutti erano riuniti nella camera del paralitico e il secondo notaio era giunto. «Dunque, possedete un capitale di 900.000 franchi che, dato il modo con cui sono investiti, deve produrvi circa 40.000 lire di rendita?» «Sì», fece Noirtier con lo sguardo. «A chi desiderate lasciare questa fortuna?» «Su ciò non ci sono dubbi», disse la signora di Villefort. «Il signor Noirtier ama unicamente sua nipote, la signorina Valentine Villefort. Lei lo cura da 6 anni e con la sua assiduità ha saputo catturare l'affetto di suo nonno, per non dire la sua riconoscenza. È dunque giusto che raccolga il premio della sua devozione». L'occhio di Noirtier mandò un lampo come per far capire che non si lasciava facilmente ingannare dal falso consenso dato dalla signora di Villefort alle intenzioni che ella supponeva in lui. «E dunque alla signorina Valentine Villefort che lasciate 900.000 franchi?» Il vecchio guardò Valentine con l'espressione della più profonda tenerezza. Poi, voltandosi verso il notaio, sbatté le palpebre nel modo più significativo. «No», disse il notaio. «Come? Non è la signorina di Villefort la vostra erede universale?» Noirtier fece segno di no. «Non vi sbagliate?» gridò il notaio meravigliato. «Dite effettivamente di no?» «No», ripeté Noirtier. «No». «Allora lasciate a vostro nipote Edouard di Villefort la vostra fortuna, caro signor Noirtier?» domandò la signora di Villefort. Lo sbattere degli occhi fu terribile. Esprimeva quasi l'odio. «Allora a vostro figlio qui presente?» disse il notaio. «No», replicò il vecchio. «Ma che vi abbiamo dunque fatto, nonno?» disse Valentin. «Non ci amate più?» Noirtier fissò l'ardente sguardo sulla mano di Valentin. «La mia mano?» «Sì», fece Noirtier. «Ora capisco», gridò all'improvviso Valentin. «Il mio matrimonio, nonno, non è vero?» «Sì, sì, sì», ripeterono 3 volte gli occhi del paralitico lampeggiando. «Tu sei contrario al mio matrimonio, non è vero?» «Sì». «E diseredate vostra nipote?» disse il notaio. «Perché fa un matrimonio che non vi va a genio?» «Sì», rispose Noirtier. Un profondo silenzio calò su quelli che circondavano il vecchio. Villefort si mordeva le labbra sottili. «Mi sembra», disse finalmente rompendo per primo questo silenzio, «che io sia il solo in grado di giudicare la convenienza di questa unione. Il solo padrone della mano di mia figlia. Voglio che ella sposi il signor Franz de Binet, e lo sposerà». Thank you. La stessa sera Montecristo uscì dalla barriera d'Enfer, prese la strada di Orléans e raggiunse la torre di Montlhéry, situata, come ognuno sa, sul punto più alto dell'omonima pianura. Giunto alla sommità della collina, si trovò davanti a una siepe sulla quale bacche verdi avevano preso il posto di fiori rosa e bianchi. Montecristo cercò la porta del piccolo recinto e non tardò molto a trovarla. Dopo aver chiuso il cancelletto agganciando la cordicella al chiodo, con un'occhiata abbracciò tutto il recinto. «Sembra», disse tra sé, «che il telegrafista abbia dei giardinieri alle dipendenze o che si dedichi egli stesso con passione all'agricoltura». D'improvviso inciampò in qualche cosa accovacciata dietro una carriola piena di foglie e che si raddrizzò lasciando sfuggire un'esclamazione di stupore. Montecristo si trovò davanti un uomo di circa 50 anni che raccoglieva delle fragole posandole su foglie di vite. «Fate la vostra raccolta?» disse Montecristo sorridendo. «Mi scusi, signore», rispose il buon uomo portando la mano al berretto. «Tranquillizzatevi, amico mio», disse il conte con quel sorriso che rendeva a sua discrezione ora terribile e ora benevolo e che questa volta esprimeva benevolenza. «Non sono un vostro superiore che viene a fare un'ispezione, ma un semplice viaggiatore condotto dalla curiosità e che già comincia a rimproverarsi la sua visita vedendo che vi fa perdere tempo». «Oh, il mio tempo non è prezioso», replicò il buon uomo con un sorriso malinconico. «Però è il tempo del governo. Ho solo 10 minuti per le mie fragole. Sono mature e lasciarle un giorno di più, lo credereste, signore? I ghiri le mangiano». «Davvero no? Non l'avrei mai creduto», rispose gravemente Montecristo. «Sono cattivi vicini, signore, i ghiri, per noi che non li mangiamo conditi con il miele, come facevano i romani». «Ah, i romani mangiavano i ghiri?» «Sì, l'ho letto in Petronio», disse il conte. «Veramente? Ah, non devono essere buoni, benché si dica grasso come un ghiro. E non è sorprendente, signore, che i ghiri siano grassi, visto che dormono tutto il santo giorno e non si svegliano che per rosicchiare tutta la notte. Sentite, l'anno passato avevo 4 albicocche e me ne rosicchiarono una. Avevo una pesca, una sola. È vero che è un frutto raro. Ebbene, signore, l'hanno divorata per metà dalla parte del muro. Una pesca superba, eccellente. Non ne avevo mangiate mai di migliori». «L'avete mangiata?» domandò Montecristo. «La metà che restava, si capisce. Era squisita». Montecristo ne sapeva abbastanza. Ogni uomo ha la sua passione che lo rode nel fondo del cuore, come ogni frutto ha il suo verme. Quella dell'uomo del telegrafo era l'orticoltura. «Signore», disse il giardiniere, «i 10 minuti stanno per scadere e io ritorno al mio posto. Volete salire con me?» «Vi seguo». «Ci vuole molto tempo a studiare telegrafia, signore?» domandò Montecristo. «Non è lo studio che è lungo, ma è il tirocinio. E quanto si riceve di paga?» 1000 franchi, signore». Salirono al terzo piano, era il locale del telegrafo. Montecristo guardò le 2 maniglie di ferro con le quali l'impiegato faceva funzionare la macchina. «Ah, alla lunga questa è una vita che deve sembrarvi un po' noiosa. Da quanto tempo siete qui?» «Da 10 anni e 5 anni da apprendista, che fanno 15. «Quanti anni di servizio vi occorrono per avere la pensione?» «Ah, signore, 25 anni. «E a quanto ammonta la pensione?» «A 100 scudi. «Povera umanità», mormorò Montecristo. «Come dite, signore?» domandò l'impiegato. «Guardate, guardate, il vostro corrispondente si mette in movimento». «Ah, è vero, grazie, signore». «E che vi dice?» «Sì, mi domanda se sono pronto». «E come gli rispondete?» «Con un segnale, che avverte nello stesso tempo il mio corrispondente di destra che io sono pronto e il mio corrispondente di sinistra di prepararsi a sua volta». «È molto ingegnoso», disse il conte. Mio caro signore, disse Montecristo, mi permettete di farvi una domanda? Dite. Se voltaste inavvertitamente la testa quando il corrispondente di destra è in moto, che accadrebbe? Non potrei trasmettere i suoi segnali? E dopo? Mi accadrebbe che, non avendoli trasmessi per negligenza, mi darebbero una multa. Di quanto? Di 100 franchi. Il decimo della vostra paga, una bella multa. Sì, esclamò l'impiegato. Ora, e se vi venisse in mente di cambiare un segnale o di trasmetterne un altro? Ah, allora è un'altra cosa, sarei licenziato e perderei la pensione. 300 franchi? 100 scudi, sì, signore. Per cui capirete bene che non farò mai niente di tutto ciò. Neppure per 15 anni della vostra paga? Via, ciò merita una riflessione, non è vero? Per 15.000 franchi? Sì. Signore, ma voi volete tentarmi? Esatto, guardate. Che cosa? Come? Non conoscete questi pezzetti di carta? Biglietti di banca. Appunto, da 1.000. E sono 15. E per chi sono? Per voi, se volete. Signore, oh, signore, mi avete distratto e io sarò multato. Eh sì, e ciò vi costerà 100 franchi. Vedete bene che ora avete tutto l'interesse a prendere i 15 biglietti di banca. Il conte mise l'involto nelle mani dell'impiegato. Ora ciò non è tutto. Con i vostri 15.000 franchi non potreste vivere. Avrò sempre il mio posto, no? No, lo perderete, perché ora farete un segnale diverso da quello del vostro corrispondente. Signore, a meno che non vi sia costretto, intendo appunto costringervi. E Montecristo trasse di tasca un altro pacchetto di banconote. Ecco altri 10.000 franchi. Che quei 15.000 che avete in tasca fanno 25.000. Con 5.000 franchi comprerete una bella casetta e 2 iugeri di terra, e con altri 20.000 vi assicurerete una rendita di 1.000 franchi. Mio Dio! Mio Dio! Ma prendete dunque! E Montecristo mise con forza i 10 biglietti in mano all'impiegato. Che devo fare? Niente di difficile. Cioè? Trasmettere i segni che qui vedete. Montecristo tirò fuori dalla tasca una carta sulla quale erano tracciati 3 segnali con i numeri che indicavano l'ordine con il quale dovevano essere trasmessi. Rammentatevi delle pesche. Se volete mangiarne delle buone, fate quanto vi dico. Il pensiero del raccolto vinse. 5 minuti dopo la notizia telegrafica giunse al ministero. Debré fece attaccare i cavalli al suo coupé e corse all'abitazione di Danglars. «Vostro marito ha dei titoli del prestito spagnolo?» disse alla baronessa. «Altro che? Ne ha per 6 milioni! Li venda subito, a qualunque prezzo!» «E perché?» «Perché Don Carlos è fuggito da Bourges ed è rientrato in Spagna, e come lo sapete voi?» «Perbacco!» disse Debré alzando le spalle. «Come so le altre notizie?» La sera si lesse nel Messager. Dispaccio telegrafico. Il re Don Carlos è riuscito a sfuggire da Bourges ed è rientrato in Spagna dalla frontiera della Catalogna. Barcellona si è sollevata in suo favore. Per tutta la sera non si parlò d'altro che della previdenza di Danglars, che aveva venduto tutti i suoi titoli, e della fortuna del finanziere, che perdeva solo 500.000 franchi dopo un tale colpo. L'indomani si lesse nel Moniteur. È senza alcun fondamento che il Messager ha ieri annunciato la fuga di Don Carlos e la rivolta di Barcellona. Un segnale telegrafico male interpretato a causa della nebbia ha dato luogo a quest'errore. I titoli risalirono del doppio, il che produsse, fra la perdita e il mancato guadagno, una differenza per Danglars di 1.000.000. Ottimo, disse Montecristo a Morrel, che si trovava da lui al momento in cui venne annunciato lo strano rovescio di borsa di cui era rimasto vittima Danglars. Con 25.000 franchi ho fatto una scoperta che avrei pagato 100.000. Che cosa avete dunque scoperto? Domandò Maximilien. Come liberare un giardiniere dai ghiri che gli mangiavano le pesche. Thank you.